Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Oggi siamo in compagnia di Sandro Veronesi, insomma lo conoscete, uno degli autori italiani più noti sia nel nostro paese che all'estero. Un romanzo per tutti, Caos Calmo, che vinse il premio Strega nel 2006, ma ci sono naturalmente anche altri romanzi, La forza del passato, XY, che era uscito un paio di anni fa e che aveva riscosso un notevole successo anche per il modo in cui fu pubblicizzato in modo virale in rete. Ma siamo oggi qui con Sandro Veronesi per parlare di un altro libro che si intitola Viaggi e viaggetti, sottotitolo Finché il tuo cuore non è contento, pubblicato da Bompiani. Un titolo che mi è piaciuto molto, appena l'ho visto, non so, mi si è aperto veramente il cuore. E allora Sandro, partirei proprio dal titolo, opera tua o opera degli editor? Qui il discorso è stata una mediazione tra un titolo basso, nel senso senza pretese, per far capire poi in fondo che questo libro di viaggi è un libro un po' per tutti, non è un libro... un libro molto intellettuale, e invece questa citazione che poi per esteso viene riportata in esergo prima dell'inizio del libro da Vonnegut, che invece alza molto il tiro, perché si riferisce al viaggiare, e c'è una pagina intera, cioè una pagina, mezza pagina che viene riportata interamente, dalla quale abbiamo estratto l'ultima frase, perché Vonnegut scrive una piccola lettera a una persona che sta viaggiando e che si è probabilmente persa, e gli fa l'elogio del perdersi, lo incoraggia e poi gli dice che insomma viaggiare è come ricevere lezioni di danza di Dio e che bisogna solo viaggiare e imparare la danza, danzare il più possibile finché il tuo cuore non è contento. E questa analogia tra il viaggiare e il danzare io l'ho trovata molto calzante, devo dire la verità, perché sono entrambe due attività che si fanno col corpo, oltre che con la testa, però il corpo è impegnato, e che si devono adattare a un ritmo esterno, perché il viaggio è adattarsi al ritmo dei posti e dei mezzi che usi per compierlo, e ti abbandoni forse anche, proprio come quando si balla, a quello che ti viene dato dal luogo dove vai. E questa credo che sia un'intuizione molto, molto acuta di Vonnegut, che peraltro insomma è un grandissimo. È un grandissimo. A proposito anche dell'intimità che tu citavi prima, proprio il primo racconto, il libro è diviso per racconti per posti che tu hai visitato intorno al mondo, è dedicato al Perù, e tu lo definisci un viaggio del lutto perché nel tuo caso è stato un viaggio che è avvenuto subito dopo una grande perdita. Sì, era un viaggio già organizzato, e soprattutto era un impegno, perché c'era un invito da molti mesi da parte del Festival di Letteratura di Lima, attorno al quale io e quella che poi nel corso del libro diventa mia moglie avevamo ricamato un sogno, un viaggio veramente mitico, perché per entrambi, come per molta gente, insomma il Perù è una delle destinazioni, certo, delle mete mitiche quasi. Poi è accaduta questa cosa abbastanza improvvisa e tragica, e la partenza, come ovvio, la perdita di tua mamma, lo diciamo, sì, perché lo dici proprio nel diario. E allora la partenza è stata più, diciamo, per me all'inizio più un fastidio, perché uno lì non si sente lo spirito, era totalmente perso l'entusiasmo. Però il fatto di dover comunque onorare un invito, e il fatto di avere accanto una persona che ha capito, insomma, che già che c'ero tanto valeva che ballassi un po', mi ha fatto capire che potrebbe anche esistere la categoria del viaggio di lutto, cioè fare un viaggio dopo un lutto per non star fermo lì nella pozza dove ti ritrovi, e con questo mito dell'elaborazione del lutto, che però se non fai nulla non cominci nemmeno a elaborarlo. Il viaggio potrebbe essere un ottimo... Sì, il viaggio innanzitutto ti sposta fisicamente, tu non ne hai voglia ma ne ricavi subito un beneficio, non ritorni nello stesso punto, ritorni fisicamente nello stesso punto. Però psicologicamente, mentalmente ed emotivamente le cose sono cambiate. Tu scrivi anche che sei riconoscente alla letteratura peruviana, appunto facendo riferimento a questo viaggio in Perù, in particolar modo a Vargas Llosa. Quando hai visto fisicamente quei luoghi che avevi letto nei libri, ti sono sembrati diversi o hai provato le stesse emozioni che avevi provato leggendo? Ma è stata una cosa strana, perché da un lato mi erano familiari, Anche se poi è vero che Vargas Llosa non descrive mai Miraflores, per esempio, ci ambienta le sue storie. Però è tutto lì, avviene tutto lì. Avviene tutto lì, però poi non è che sta lì a descriverti minuziosamente le strade, per cui tu non è che vedi le cose come stanno, però le vedi come sfondo e dopo un po' il nome stesso e poi il fatto, il nome di certe strade, anche se non le hai mai viste, ti diventano familiari. Allo stesso tempo però era un luogo molto esotico per me, perché lo vedevo per la prima volta. Mentre le riconoscevo, allo stesso tempo le scoprivo. È una cosa molto bella andare in un luogo che ti è familiare, perché io i libri di Vargas Llosa li leggo da quando avevo 18 anni, ma allo stesso tempo è nuovo perché non l'avevi mai visto. In tutto il Perù, ma in particolare a Lima, in particolare a Miraflores, ho provato questa doppia emozione. In questo libro, Viaggi e viaggetti, ci sono diverse cose, insomma, che mi hanno colpito, che mi sono piaciute. Innanzitutto l'intimità, come dicevi tu, che è descritta anche in cose piacevoli. Per esempio, quando descrivi il tuo capodanno a Courmayeur, a casa di tuo fratello, si ha una sensazione proprio di familiarità, cioè della serie è un mio amico che mi sta raccontando che cosa ha vissuto. E nello stesso tempo, appunto, ci sono citazioni letterarie, o meglio citazioni di scrittori che tu ovviamente conosci bene, come per esempio l'incontro letterario con David Foster Wallace, che praticamente sei stato tu a portarlo in Italia. Beh, sì, certo, e quindi poi sono finito invitato dal Pen Festival a presentare Il Re Pallido insieme a dei miti della letteratura contemporanea americana. C'era Rick Moody, per dire, sì. E c'era Michael Pitch, che è l'editor amico di Wallace. Però è vero anche che io ho sempre viaggiato da solo, e quindi ho sempre viaggiato, diciamo, nel mito delle cose lette, che non erano tanto appunto le guide quanto i romanzi ambientati in quei luoghi. Per fare un esempio, la prima volta che io ho messo piede a Parigi in vita mia, sono sceso dal treno, dal vagone letto dove c'ero arrivato, e prima ancora di andarmi a cercare un albergo con la valigia sono andato alla Madeleine a sedermi sui gradini dove finisce Fuga senza fine di Joseph Roth, che finisce lì. Allora la facevo più semplice, viaggiavo da solo. Poi invece, quando adesso ho cominciato a viaggiare con la famiglia, con i figli, che è tutto un po' più faticoso, però ho scoperto la gioia della compartecipazione, no? Della divisione. Prima citavi appunto i tuoi miti, insomma, giovanili. C'è il viaggio di Londra che in qualche modo li ripercorre tutti. Tu racconti che hai visto Londra a distanza di 20 anni da una delle volte in cui eri stato, e lì ti sei reso conto del tempo che passa, che non sei più un ragazzo. Che sensazione ti ha dato questo viaggio? Beh, appunto, io anche lì ero andato a cercare il 113 bis di Baker Street, che non esiste, dove sta Sherlock Holmes. Quando ero ragazzo ci sono andato diverse volte a Londra, anche a studiare, no? Quelle cose che si fanno, ed l'avevo eletta, no? Come tutti i ragazzi, a città, diciamo, formativa per la musica, per la cultura, e quindi c'erano un sacco di posti che io sentivo come miei, anche se poi c'ero andato 2 volte in tutta la mia vita. Questo lasso inspiegabile, perché poi a rifletterci uno si chiede, ma perché ho fatto passare così tanto tempo? Londra non è tanto difficile da raggiungere, no. Però è andata così. Mi ci ha fatto ritornare con i figli, grandi ma anche piccoli, e con tutta la loro mitologia. Nel frattempo aveva preso il posto della mia, no? Per cui tutto quello che avevo vissuto e che non c'è più, perché non ci sono più, no, gli anni 70. La visita non era più a Baker Street, dove non c'è la casa Sherlock Holmes, ma a Charing Cross, dove non c'è il binario 9¾ di Harry Potter. Ecco. E allora questo mi ha dato proprio la misura di questi 20 anni, perché non sono tanto i 20 anni che sono passati, ma cosa è successo nel frattempo nella mia vita. Io sono passato da figlio a padre, da ragazzo a uomo, e questi 20 anni, insomma, a Londra li vedi tutti. In questo libro citi tantissime città, appunto dicevamo Londra, Anversa, che definisci la città più bella d'Europa, Amsterdam, ma poi ci sono gli Stati Uniti, il Perù, appunto un viaggio a Lisbona, a Parigi, che abbiamo già citato, il Messico. Fra tutti questi viaggi ce n'è uno a cui sei emotivamente legato di più? Ma io credo che è il secondo viaggio di lutto che faccio, quello nel sud degli Stati Uniti, perché quello è stato fatto apposta. l'anno dopo il primo viaggio io ho perso anche il padre, e in quel caso, visto che il viaggio in Perù era servito a smuovere un po' qualche cosa e a rendermi meno passivo nei confronti, insomma, del lutto, allora abbiamo proprio concepito un lungo viaggio risarcitivo, che è diventato languidissimo, ovviamente, perché questa volta non c'era la scusa, diciamo, di onorare un impegno, c'era proprio una volontà molto stridente con il senso di lutto che ci portavamo dietro. Era stridente questa volontà poi invece di vedere la bellezza, di goderla, e c'era nel sud degli Stati Uniti, nel Golfo del Messico, c'era quel clima così letterario, no? così umido, caldo, si sudava solo a sorridere, e quindi credo che quello sia stato il viaggio tra questi, quello più intenso, proprio perché è stata un'azione deliberata, mettersi a ballare mentre si sta male, senza che nessuno ti abbia invitato, senza che ci sia nessun impegno preso, proprio come per principio. Grazie a Sandro Veronesi, ora in libreria con Viaggi e Viaggetti, Finché il tuo cuore non è contento, pubblicato da Bompiani. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it. Buona lettura da Alessandra Tedesco.